Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Immobile contro Buffon. Parte Immobile! 2-1 Lazio! Ancora lui! Ancora Ciro Immobile dopo la doppietta in Supercoppa italiana. La mette dentro anche all'Allianz Stadium e la Lazio ribalta tutto. C'erano già state a Bergamo, c'erano già state col Sassuolo 2-0, c'erano state in casa col Torino. In quei momenti lì abbiamo un attimo di calo di concentrazione e paghiamo a caro prezzo. Abbiamo lasciato 5 punti per la strada tra Bergamo di oggi e non abbiamo ancora capito bene che per vincere il campionato bisogna avere la forza e stare tutti i giorni a combattere e a far fatica. Mertens sterza, arriva Insigne, ancora Insigne, il tiro, rete! Insigne, Napoli in vantaggio. È un campo difficile contro una grande squadra, abbiamo fatto una vittoria sofferta, ma la vittoria di tutto il gruppo è perché dal portiere al 23esimo in panchina non molliamo mai chi scende in campo e questa è la cosa importante. 17.09 rigorosamente in diretta, menù ricchissimo in questa domenica con Giovanni Capuano, sottoscritto, con Carlo Genta, poi dopo le 18 arriva anche Pierluigi Pardo di tragitto verso San Siro per il derby dei record questa sera. Record anche perché dopo 8 giornate io credo dovrà dare un verdetto che potrebbe essere già definitivo, ad esempio sul Milan di Montella, ma avremo tempo di parlarne dopo le 18. E anzi, vi invito 800 24 00 24 a prenotarvi fin da questo momento. Dopo le 18 parliamo alla grande del derby, quindi voglio sapere che sensazioni avete. Io credo siamo davvero a un bivio ultimativo per pareggione Milan e per Montella. Della paura, esatto. Invece, per quanto riguarda il duello scudetto che si è ulteriormente aperto ieri sera, la domanda è: il Napoli adesso è la vera favorita, sì o no, dopo quello che ha fatto vedere anche all'Olimpico, sempre ammesso che siano solo due e non tre, perché la Lazio, che invece ha sbancato Torino, è una signora squadra, dobbiamo rassegnarci. Saluto subito Bruno Giordano. Come rassegnarci? Che qualcosa di Lazio sa. Buon pomeriggio a voi. Anche quando, di Napoli, quando sa qualcosa. Sì, sa qualcosa di Lazio e di Napoli soprattutto. Giornata perfetta ieri. La giornata perfetta, perfect day. Senti, ma quando è che la smetteranno loro signori, non io, mi tiro fuori dal coro e parlo anche a nome di Pardo perché è anche il suo pensiero, di considerare la Lazio come la cenerentola del gruppo di quelli che inseguono la Champions League, perché secondo me è una super squadra. Se ha un difetto è la qualità nella profondità, cioè ha 5-6 giocatori, che non è un difetto da poco, fondamentali. Sono d'accordo, forse viene da lontano, perché negli ultimi anni alterna sempre delle stagioni importanti a quella successiva un po' così zoppicante. Invece quest'anno ci si aspettava una stagione con qualche problema e mi sembra che invece sia iniziata meglio della passata. Però c'è da essere onesti, io credo che ancora tre o quattro squadre a livello di organico siano superiori. Sì. Parlo del Napoli, la Juventus, la Roma che balbetta e la stessa Inter. Però, appunto, come ho detto prima, se c'è qualche squadra che balbetta, io credo che la Lazio sia pronta per inserirsi in un discorso ancora più importante. Come organico. Come organico e soprattutto non avendo le coppe europee. Sì, che anche l'Inter non è lunghissima, però ha il vantaggio di non dover fare le coppe europee, di non fare l'Europa League, che di energie ne succhia tantissime. L'Inter non ha Ciro Immobile, quindi approfittiamo di Bruno Giordano. Tra l'altro, per chi vuole e non lo sa, per quei due o tre, sapere qualcosa di Bruno Giordano, da inizio ottobre c'è fuori Una vita sulle montagne russe, scritto da Giancarlo Governi, uscito il 5 ottobre, che insomma vi racconta un po' con chi stiamo parlando a proposito di conoscenza di cos'è, ragazzi, un attaccante magica. Ciro Immobile, che ha dei numeri da paura. Se volete ve li cito. Allora, ha fatto 15 gol stagionali con la Lazio in 11 partite, non contiamo la nazionale, segna un gol ogni 58 minuti tra campionato, Europa League e Supercoppa. È arrivato alla maturità. Sì, maturità, si è ripreso dopo due stagioni deludenti, soprattutto all'estero. Credo che abbia trovato la sua casa perfetta. Già dalla passata stagione si vedeva che si sentiva a casa, e quest'anno sta facendo veramente grandissime vediamo cose. Dove arriva Bruno, vediamo dove arriva questo ragazzo, perché a questa sta marciando a ritmi da 30 gol. Ma secondo te perché quando ha messo il naso fuori dall'Italia ha fallito? Ma lui ha detto tanti piccoli problemi, non penso che ce ne sia soltanto uno, può essere dalla lingua, ad una squadra, oppure che devi andare a rimpiazzare Bacca piuttosto che Lewandowski. Quelle pressioni, a quell'età le ha subite, adesso è nel piano della maturità, 27 anni, che credo che sia l'età migliore per un atleta che, appunto, che gioca a calcio. Sì. E sta ritrovando, si sente leader, si comporta da leader con me. Con gli atteggiamenti, non con le chiacchiere, credo che dal pubblico è amato e credo che terrà fino alla fine. Insomma, speriamo. Io che voglio tirare un trappolone a Bruno Giordano, però finisci il concetto su Immobile della Lazio. No, volevo poi dire, speriamo che appunto non abbia una domenica la febbre, perché sì, appunto quello che dicevate prima voi, se dovesse venire a mancare Immobile piuttosto che De Vrij o Luca Seleiva, sono i due problemi di Inzaghi. No, il trappolone è se in nazionale viene sfruttato bene, se ha bisogno di essere da solo come riferimento davanti, se può far fatica con Belotti. Ma lui è un giocatore che sa giocare e far giocare bene anche la seconda punta, sa giocare da prima punta, forse è un giocatore che ama giocare da prima punta perché piace spaziare. Ma lo impiega meglio Inzaghi o Ventura? Sicuramente Inzaghi, perché i numeri sono quelli, ma oltre che l'impiego credo che abbia più rifornimenti. La Lazio gioca molto per Immobile, l'Italia soprattutto nell'ultimo periodo fa fatica a costruire occasioni da gol e poi non tutti i palloni vanno giocati per Immobile, sì, giustamente, perché ci sono anche altri campioni. E non c'è dubbio. Allora, leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati. Ho dato il numero dei messaggi, no, SMS, WhatsApp, 349-238-6666. Scrivono: questa è l'ultima stagione di Allegri alla Juventus, una parte dei senatori dello spogliatoio è stanco del mister. Dopo le 17:30 con Paolo De Paola analizzeremo la crisi della Juve, perché credo che di crisi si tratti, anche se poi ci sono i pali, le traverse, i rigori sbagliati, però come scrive oggi Tutto Sport, forse in maniera anche un po' provocatoria, ora è grave, ci sono limiti strutturali, considerate quelli che sono gli obiettivi della Juventus. Poi scrive un altro amico: il Napoli non convince, troppo preciso, dinamico e concreto, non ha sbavature, basta un granello di sabbia negli ingranaggi per farlo scoppiare, corre oltre le sue possibilità. Hai questa impressione, Bruno? Ma che sia una macchina perfetta, sì, io credo che il Napoli, se dovesse avere un calo Koulibaly, potrebbe andare in difficoltà, perché Koulibaly in questo momento è il difensore più forte al mondo insieme a Sergio Ramos, è un giocatore che sa impostare, sa difendere, per vincere i campionati o ci vogliono dei doppioni all'altezza oppure devi sperare quello che ho detto prima per Immobile, che non abbia un minimo calo di forma. Il Napoli però è perfetto, è vero che è perfetto, se dovesse avere un calo fisico su qualche uomo, soprattutto in avanti, adesso potrebbe avere qualche problema, però mi sembra anche per Mertens, spettacolare. Sì, sì. Vale anche per Mertens, sì, adesso abbiamo il traffico, ma Bruno hai un minuto perché dopo il traffico, ma è un minuto, voglio ripartire con la domanda che abbiamo lanciato anche con un sondaggio via Twitter, veniteci a cercare @ tutti convocati. Oggi il Napoli è la vera favorita del campionato, più della Juventus, sì o no? Ci state dicendo sì circa il 60%, ma andate avanti a votare, soprattutto ditecelo 800 24 00 24. Però io vi do un numero che secondo me ha dell'incredibile, che riguarda il Napoli, la sua continuità e la Juventus. Il confronto con quella che noi ci siamo abituati a ritenere in questo momento la squadra più forte d'Italia. Il Napoli fa il bel calcio, la Juve è quella che vince. Io vi do, dopo il traffico, un numero che ha dell'incredibile. Bruno Giordano resta con noi, torniamo subito. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, rientriamo, c'è Bruno Giordano con noi, 800 24 0024. La domanda che vi giriamo è: dopo aver visto queste prime 8 di giornate di campionato e dopo il sabato di ieri, il Napoli è la vera favorita per lo scudetto? Quella della Juve è una crisi, una crisetta, che cos'è? È un limite strutturale? No. Io penso di sì. Invece io Bruno non Giordano credo sia la vera favorita dello scudetto, continua a essere la Juventus. Bruno. Io credo ancora alla Juventus, perché credo che la Juventus è più brava nel saper gestire queste piccole crisi. Vedremo appunto da qui a breve se sarà bravo anche quest'anno la Juventus a superare la grande crisi che ha avuto 2 anni fa, ricorderete le prime giornate. Il Napoli ancora deve avere una piccola crisi, non sappiamo l'ambiente, gli stessi calciatori come reagiranno, però io credo che ancora una piccola percentuale, forse per scaramanzia, perché il mio cuore batte vivo chiaramente per il Napoli e per la Juventus, però per scaramanzia dico ancora piccola percentuale a favore della Juventus. Sì, magica, Maradona, Giordano, Careca, hai parlato prima di... ma questi che ci sono adesso di sono forti. Sì, sicuro, hai parlato prima di Immobile e della sua insostituibilità per la Lazio. Se viene invece il raffreddore a Mertens, come la mettiamo? Non avendo alternative, perché il problema Milik è un problema... Però lo dicevamo anche l'anno scorso, ragazzi. Sì, però l'anno lì c'è scorso... Sarri, cioè, come no, fai a escludere chiaro, che si inventi qualcosa? Caleon centravanti. Mertens a tutti gli altri. Credo che l'unica alternativa potrebbe essere Caglion per vie centrali, Roca a destra. Però insomma speriamo che non ce ne sia bisogno. Allora io vi do quel numero che vi ho promesso. Allora, voi sapete quanti punti ha fatto la Juventus dall'inizio del girone di ritorno dell'anno scorso e poi nelle prime 8 giornate di quest'anno? 62. Cos'è trivial? 62. Sapete quanti punti ha fatto il Napoli? A proposito di gioco soltanto bello, poco redditizio, sapete quanti ne ha fatti? Quanti? Ne ha fatti 72. Ha vinto 23 partite su 27. Io trovo che sia diventato a questo punto stucchevole il ragionamento sul fatto che il Napoli gioca bene e la Juve vince. Il Napoli ha un gioco che è anche redditizio, funzionale, che fa punti e che ha tutto per anche nella continuità. Si può vincere anche giocando bene. Insomma. Anche giocando bene. No, perché noi continuiamo a dividerci, Allegri vince, Sarri li fa giocare bene. E guardate che i numeri, è un girone e mezzo, comincia ad avere un significato. Ma comunque anche quando ha vinto la Juventus non è che giocasse male. Appunto, bravo. La Juventus era una squadra che dava spettacolo. In un altro modo... meno possesso palla, però anche a Juventus mi piaceva. Anche a me, Bruno. Ma anche a me, poi se uno vuole lo spettacolo a tutti i costi va al cinema o a teatro, il calcio è una cosa diversa. Vedere Napoli adesso, non perché... No, ma va a vedere, ma però ha ragione Bruno, cioè nel momento in cui la Juventus ha tutti gli uomini a disposizione, sono tutti in condizione, bla bla bla, la Juventus è una squadra che gioca bene a pallone, non è inutile star lì a dire giochi in un modo diverso, però chi capisce di calcio come Giordano vede una squadra che è bella anche da vedere. Che certo. Ieri non ho capito per dire Dybala in panchina. Con tutto il rispetto per Massimiliano Allegri, però insomma è un ragazzo di 23 anni che va in Argentina e ritorna senza giocare un minuto, penso che ha la forza di poter giocare una partita così bella come quella di ieri. Sì, che il rigore a parte non è neanche stato male nei 20 minuti che ha giocato. Appunto, perché ha fatto una buona partita. Va bene, ci aggiorniamo. Grazie a Bruno Giordano. Ciao Bruno, grazie. A voi, buona serata. In libreria dall'inizio di ottobre, Giancarlo Governi con Bruno Giordano, Una vita sulle montagne russe. La storia di Bruno Giordano, che è stato un cannoniere straordinario di Napoli, di Lazio, del calcio italiano, e che ci ha aiutato ad analizzare il momento di Juve e Napoli, che sono le due squadre che in questo momento si contendono lo scudetto, anche se in realtà questa sera seconda potrebbe salire l'Inter pareggiando o vincendo il derby, e sabato prossimo ore 20:45 c'è proprio la sfida al San Paolo tra Napoli e Inter. Questo pomeriggio abbiamo visto le vittorie della Sampdoria e del Bologna, che ad oggi sono in zona Europa League. Zitti zitti Giampaolo e Donadoni, carissimo Carlo, che sono due allenatori spesso contestati perché mancano di continuità, ma in realtà sono sempre tra i migliori e la Samp gioca anche un bel calcio. Zitti zitti viaggiano più o meno la media di 2 punti a partita. Sì sì, no, ma stanno facendo grandissime cose. Giampaolo è alla seconda riprova, perché anche l'anno scorso con una squadra molto sottovalutata aveva fatto una grande stagione. e quest'anno sta facendo il repeat con una squadra ulteriormente indebolita rispetto a quella dell'anno scorso, ed è inutile nasconderlo, perché lo sai anche tu, no? I giocatori che, sappiamo tutti i giocatori che se ne sono andati da quella squadra. Tutti dicevamo a inizio stagione le due genovesi se la giocano per la salvezza, il Genoa credo di sì. Sì, il Genoa intanto oggi è uscito dalla crisi, ma del resto erano troppo pochi, 2 punti in 7 partite se la gioca per la qualità fatta vedere fin qui. La Samp ha vinto contro l'Atalanta, che ha giocato un'ora senza il Papu Gomez, l'ha provato a buttare dentro dopo aver subito 2 gol di rimonta, dopo un grande primo tempo, gol di Cristante, però non è bastato. Qualche sms che è arrivato, 349-238-6666, sms e WhatsApp. Juve favorita quest'anno, allora credete alle scie chimiche? Però adesso non esageriamo. Il Napoli sta dimostrando di avere una qualità e una funzionalità che credo in questo momento in Italia non abbia nessuno, nemmeno la Juventus. No, non ha nessuno, nemmeno la Juventus. Io non continuo a non capire, uno dei misteri buffi del nostro calcio, perché la Lazio venga sottovalutata e perché Allegri continua ad essere denigrato, soprattutto da una certa parte della tifoseria juventina. Allegri è lì da 3 anni, ha vinto 3 scudetti, ha fatto 2 finali di Champions League. Che deve fare di più? Vince la Champions League, va bene, e tutti gli altri cosa devono dire? Poi ci scrive un amico: Allegri è il tipico genio, se mette la squadra in campo migliore, se mette la squadra migliore in campo sa che vince, ma vuole vincere lo stesso con originalità. Ieri in tanti hanno analizzato la partita della Juventus contro la Lazio e hanno trovato degli errori, oltre che di Higuaín, di Dybala, di Barzagli, che si è assunto la responsabilità sui 2 gol subiti dalla Lazio, degli errori anche di Allegri, partendo ad esempio dal turnover esagerato, dall'aver tenuto fuori giocatori che probabilmente sarebbero serviti di più di quelli fuori ruolo messi in campo. Anche lì d'accordissimo quanto ha detto Giordano, cioè nel senso che Dybala in panchina che cosa ci sta a fare? È vero che c'è la Champions League dietro l'angolo, è vero che ha fatto un viaggio intercontinentale, però praticamente in Argentina è andato in vacanza, quindi non credo che si sia spremuto più di tanto. A 23 anni, 24 anni può salire su un aereo, attraversare il mondo e scendere in campo come 1000 volte, sai benissimo, ha fatto Zanetti, tanto per dirne uno, no Giovanni? Allora, a proposito di chi si è visto ieri, adesso vi faccio sentire Di Francesco e Inzaghi, quindi le voci dei due tecnici delle romane ieri dopo le partite. A volte le partite, come si dice, sono determinate dagli episodi, ma gli episodi fanno parte delle gare. A volte ti girano a favore, altri contro. In questo momento, in questa gara, in determinate situazioni ci è girata contro, perché prendere ogni volta 2 pali con l'Inter 3, sicuramente un pizzico di sfortuna ci avremmo parlato di una gara differente. Ho visto una squadra che sta crescendo, maturando. Dal mio punto di vista abbiamo avuto un po' troppo rispetto nel primo tempo di questa squadra ed è quello che io non volevo. E dobbiamo stare sereni, giusto che i ragazzi si godano questa impresa, perché è un'impresa. Sono passate solo 8 partite, all'inizio probabilmente ci mettevano molto, molto dietro a tutte. Io quando lo leggevo era motivo di grande carica. La Lazio 19° posto, quello che ci dicevano alla vigilia, non era così. Adesso è normale che si parli più di questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo inizio di stagione, poi soprattutto dopo questa impresa qui allo stadio. L'ultimo era Inzaghi, il primo Di Francesco. Credo che la Roma esca in parte ridimensionata dallo scontro con il Napoli. È squadra che possa fare corsa scudetto in questa stagione. Assolutamente, ma corsa scudetto secondo me non la può fare nessuno se non Juventus e Napoli. Le altre stanno comunque un gradino sotto. È chiaro che possono approfittare di un suicidio collettivo di queste due, però non credo che avverrà. E un gradino sotto stanno tutte le altre. Nella pattuglia sta la Roma, sta la Lazio, sta l'Inter, non credo stia al Milan stasera, lo vediamo nel derby, almeno attualmente non è così, e tra queste tre io quella che mi piglio è la Lazio. Con pardon, quella che mi piglio è la Lazio, perché in questo momento, poi è chiaro siamo a ottobre, in questo momento tra le tre è la squadra che io sceglierei. Fabrizio da Firenze ricorda che la Roma nel secondo tempo è stata superiore al Napoli, parliamone, sì, però non c'è mai stata l'impressione che il Napoli potesse uscire di partita. 800 24 00 24, Ciro. Allora, eccoci, ciao, buon pomeriggio. Buongiorno, io sono Ciro. Io volevo dire che secondo me sono Roma, Juventus, Inter e Napoli la corsa scudetto. Cioè in quest'ordine? Juventus, Roma, Roma, Juventus, Inter e Napoli. Roma, quarta. Juventus, Inter e Napoli. Cioè, l'ordine non è un ordine di meriti, ma è sparso. È sparso. Ma sono le quattro. Sì, ma quindi chi è la favorita, bro, Ciro? La favorita è il Napoli. Napoli. Anche perché la Juventus sta avendo cali dopo la sconfitta con il Barcellona. Sì, io trovo abbastanza ridicolo, trovo che abbia abbastanza poco senso parlare di fortuna per i risultati del Napoli. È stato fatto anche in relazione alla vittoria di ieri sera all'Olimpico contro la Roma, dove si sono sottolineati il palo, la traversa nel secondo tempo, così. Però insomma mi sembra che questo Napoli abbia i punti che oggettivamente netto, si sta meritando. Beh, percorso netto, cioè non, cosa chiedi più di, cosa chiedi più di così? È chiaro che è un campionato che si giocherà sui confronti diretti, l'abbiamo detto mille volte. E il Napoli ieri sera ne ha vinto uno fondamentale, la Roma ne ha già persi due con l'Inter e con il Napoli, entrambi in casa, quindi questo vedrai che peserà comunque. Sì, è qualcosa con cui bisogna misurarsi. Sarà un testa a testa tra Inter, che non ha le coppe, Napoli e forse Juventus. Questo scrive un amico, 349-238-6666. Poi ancora, adesso apriamo il tema sulla Juventus, lo facciamo con Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Bonucci inguaiato sia Juventus che Milan. Al Milan non serve, alla Juventus era indispensabile. Vediamo, ne parliamo, ci fermiamo un minuto, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Frutta, la natura di prima mano. Vi presento. Convocati. Interviene scivolata. Bar, calcio di rigore. Stracoscia! Secondo rigore consecutivo parato a Dybala. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La Lazio batte la Juventus per la prima volta dal 2002. I hated, never mind. Go away. Dybala giovedì non si è allenato perché è arrivato, è sceso dall'aereo, era mezzo moribondo, l'ho mandato a casa. Dybala dal dischetto ha sempre la sua fiducia. Dybala continuerà a tirare i rigori, deve ritornare a tirare i rigori su tutti i livelli. Non abbiamo per 95 minuti quella cattiveria addosso, quell'attenzione più che la cattiveria, e molliamo un pochino in alcuni momenti della partita. Questi risultati a noi ci fanno bene perché ci fanno ritornare con un po' con i piedi per terra, perché a volte le cose ci sembrano troppo facili e invece non lo sono affatto. Allora, parliamo della Juve, 800-24-0024, c'è da capire se si tratta di un accenno di crisi o se invece semplicemente alle volte le partite vanno così, come è andata a Bergamo dove sbagli un calcio di rigore, come è andata ieri sera dove sbagli un calcio di rigore, prendi una traversa e un palo, però secondo me non dai mai l'impressione di essere in possesso, in dominio della partita. Oggi Tutto Sport, direttore Paolo De Paola, ha scritto in prima pagina: Juve presuntuosa e impreparata, lezione di Inzaghi e della Lazio allo Stadium. E anche questo è un tema di cui dobbiamo discutere. Saluto Max Nerozzi, collega della Stampa. Ciao, Max. Ciao, buonasera. Riusciamo a sentire insieme Enzo da Perugia? Enzo, 800-24-0024, dai. Sì, guardate, mi sentite? Sì. Allora, no, il vostro arrampicarvi sugli specchi nella difesa di Allegri, francamente, sono anni. È la terza volta che vi chiamo a questo proposito. No, fagli tu il processo, vai. Che ha fatto? No, che deve fare di ragazzi, te. Ma non si può continuare, ma si può tenere. Ci ha raccontato che Dybala l'ha visto, era stanco e l'ha mandato a casa. Ha giocato 20 minuti da Dybala, secondo me ha preso un palo meraviglioso con la classica giocata di Dybala e non l'ha fatto giocare. No, ma ascoltami, cioè, ma che cosa deve fare Allegri di più? No, ma ieri ha fatto degli errori. Ma, ok, va bene, ma dobbiamo... Allegri indifendibile, diversa, cioè sulla partita di ieri possiamo discutere di Dybala, ok, della preparazione della partita, ok, ma discutiamo Allegri in valore assoluto? Possiamo discutere di Mandzukic che gioca sempre e comunque, che non c'è verso di vedere per favore rispondi alla domanda. Discutiamo Allegri allenatore in valore assoluto o lo discutiamo per la partita di ieri? No, è un nel valore assoluto. Ah, nel valore allora mi arrendo, io mi arrendo. Secondo me non è una pippa. Ok, va bene, è una pippa. Va bene. Allegri che ha vinto 3 scudetti e giocato 2 finali di Champions League, è una pippa, perché invece Conte è il fenomeno che aveva vinto i 3 prima, la Champions League non l'ha neanche vista col binocolo. Lasciamo stare Conte, dov'è che ha dei problemi anche lui. No, per carità, le vedove di Conte sono sempre sull'attenti. Max Nerozzi, allora, da dove partiamo per raccontare il momento della Juventus, più che la partita di ieri sera, Max? Ciao, io non discuto il valore assoluto di Allegri, che mi sembra una follia e nega i risultati degli ultimi anni, anche al Milan, tra l'altro, certo, soprattutto il terzo posto con una squadra smontata. Bravissimo, Max. Bravissimo. Però, pane al pane, ieri Allegri è stato il peggiore in campo. Assolutamente. Su questo penso possiamo essere tutti d'accordo, nella preparazione e nella gestione della partita. E poi, okay. Caro, mi colpisce una cosa: Allegri, che voi lo ricordate spesso, è stato l'uomo anche delle grandi invenzioni. Cioè trequartista Vidal per fare il quadrilatero storico di centrocampo, chiaro, con Pirlo, Pogba, Marchisio, il 4-2-3-1 l'anno scorso. Secondo me, ribadisco, sta ancora ruminando nella sua testa su come far giocare questa squadra. Ha avuto un sacco di giocatori spappolati dalle nazionali, non è colpa sua questa, non aveva molta gente da mettere in campo ieri, però le domande secondo me principali sono due. Uno, Douglas Costa, può piacere o non piacere? Secondo me è un buon giocatore, non so se avrei investito così, ma è un buon giocatore. E ieri sembrava un UFO, siamo quasi a novembre. Io capisco l'UFO a luglio, a novembre faccio un po' più fatica. La seconda domanda, scusami, chiudo. Mandzukic, fenomenale, l'anno scorso secondo me uomo dell'anno, perché sennò con quel modulo lì non ci puoi giocare. Ma con questo stato di forma, Mandzukic o gioca centravanti o gioca centravanti, cioè nel tridente esterno, certo, non lo può fare. Assolutamente. E tra l'altro potrebbe anche farlo, visto come sta rendendo Higuain. Ricordate l'altra volta ha giocato, quando Higuain è stato fuori, giocarono Cuadrado e Douglas Costa, cioè due ali vere, e Mandzukic in mezzo, va bene. Allora, io aggiungo un altro paio di domande, e cioè la prima è se la Juve con Pjanic e senza Pjanic è la stessa cosa, e Pjanic mi pare che sia un giocatore insostituibile nello scacchiere della rosa, e poi se dobbiamo rassegnarci al fatto che la Juve abbia una fase difensiva perforabile, perché questo sta dicendo oggi la stagione, i 13 gol presi in 11 partite, ma i numeri non sono tutto, è la ripetitività con cui si commettono errori, poi ogni volta qualcuno si assume le responsabilità. Ieri è stato Barzagli, però la realtà è che la Juve il gol lo prende. Max? Sì. Non è la stessa squadra con Pjanic, sono d'accordo, è l'unico vero regista, è per quello che secondo me ieri la scelta di Dybala è stata rischiosa, perché senza Dybala e Pjanic un film fantasy non lo puoi fare, e quindi ti consegni secondo me ad altre trame. L'altra cosa, la difesa è un problema, perché 7 gol presi in 8 partite, è un resto problema al campionato. La difesa, perché è un problema tutta la squadra, no perso, anche il centrocampo, però ti dico una cosa: noi siamo affezionatissimi a Barzagli, che ha fatto grandissime partite, anche quest'anno le ha fatte, però io seguo anche la nazionale, tu ti ricorderai, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Barzagli non gioca in Albania perché ha un risentimento agli adduttori. Io non so, c'è Rugani che ha fatto 540 minuti nelle prime 5 partite, ha ben figurato, è perché chiaro, non deve giocare Rugani? Io non faccio allenatore e sto qui a parlare con voi, mi diverto. Però sono tre anni che andiamo avanti con questa storia di Rugani. Evidentemente Allegri non lo vede. Beh, Rugani sennò ha perso anche il posto giocare in nazionale, il posto diciamo di prima riserva. Non gioca. Nelle rotazioni, perché abbiamo visto giocare a Storia, abbiamo visto entrare a Cervi. Sarebbe da farsi delle domande. Ma quindi ci sono problemi strutturali, il che porta alla domanda che abbiamo fatto all'inizio. Io vi sollecito ancora, 8-0-0-24-0-0-24, cioè, quindi oggi il Napoli è la squadra più forte d'Italia, è la favorita per lo scudetto? Secondo me oggi sì, però scommetto che la Juve giocherà fra poco in un modo in cui non l'ha ancora fatto. Cioè, la Juve che non è il 4-3-3, sempre... non è il 4-2-3-1? No, e tra le cose ieri sostanzialmente ha giocato senza terzini, e la Juve è una squadra che anche in Europa, ed è vero, vinci sei dei terzini che spingono. Alessandro ieri non ha giocato perché era anche lui mezzo rimasto in Sud America, e Rick Steiner, che per 6 anni è stato uno dei migliori terzini d'Italia, forse il migliore per rendimento, non per talento ma per rendimento sicuro, ieri francamente è stato levato perché non poteva più stare in campo, cioè, ha giocato Sturauter fino adesso. Ne mancavano tanti, ne mancavano tanti. Qui conta anche perché Decilio aveva iniziato bene ed è rotto. Ovedes è stato preso per quello e non lo vedremo, perché neanche mercoledì rientra tra i convocati, entra solo Pjanic. Marchisio, siamo sub iudice medico. E non penso che si aggiusterà a breve. Io so che Allegri è già convinto di arrivare a Napoli-Juve sotto in classifica, sarà quasi inevitabile, e quindi cambia anche la geopolitica del campionato, perché se fin qui si vincevano con le piccole e con le medie, la Juve adesso è condannata a vincere i scontri diretti, non c'è ma da lì passa la strada per il campionato. Fin qui ne ha fatti pochi di scontri diretti. Credo che il prossimo sia fra 4 giornate con il Milan a San Siro. Sì, bravo. Correggimi Max se sbaglio. No, vero. Poi adesso abbiamo 3 minuti, li abbiamo, sì, prima del traffico. Io ho trovato preoccupante per i tifosi della Juventus il richiamo che ha fatto ieri Allegri dopo la partita alla necessità del lavoro quotidiano per arrivare poi preparati a vincere le partite. Insomma, sembra un richiamo a qualcosa che magari noi conosciamo poco, che succede in settimana o che non succede, allo spogliatoio, magari a un certo senso di rilassatezza, di poca fame. Perché Allegri parla così? Perché non, lui poi ha detto c'erano le nazionali, c'era tutto, la Lazio è un'ottima squadra e nessuno è qui a discuterla, però ha detto noi dobbiamo imparare che durante la settimana bisogna sudare. Sono parole che alla Juve non si sentono tante volte. Si sono già sentite anche l'anno scorso, ogni anno si sentono, negli ultimi 3 anni. Ma guarda, lo spogliatoio da quel che mi risulti è abbastanza buono, non ci sono state crisi come l'anno scorso a febbraio. Con chi ce l'aveva? No, però faccio il paio con la tua osservazione che ha un filo logico, se tu ti ricordi, dopo Sassuolo-Juventus, Allegri dice Matuidi, grandissimo giocatore, sta zitto e corre. E questo, secondo me, più che un complimento a Matuidi, era anche un messaggio per altri. Era una bella bacchettata a chi evidentemente parla e corre magari un po' meno. Comunque, insomma, vediamo cosa succede poi in settimana nell'incrocio di Champions League, che è comunque un incrocio importante, visto la situazione dopo la sconfitta nella prima partita a Barcellona. Grazie Max Nerozzi, alla ciao prossima. A voi. Ciao. Buon pomeriggio, ciao. Grazie Max Nerozzi, 800-24-00-24. A proposito di Champions, c'è anche Manchester City-Napoli. Guardiola contro Sarri. Mica male, il programma Sarri della contro settimana. Uno dei massimi estimatori del gioco di che Sarri. Stavamo aspettando da un sacco di tempo e che arriva probabilmente nel momento migliore per le due squadre. Sì, non ci arriva City malissimo il Manchester City. Allora, dopo il traffico, facciamo così, 2 dati, vediamo sul Manchester City di questo inizio di stagione. Convocati. Tutti convocati. Palla ancora sui 3 piedi, Bernardo Silva. Anche il primo gol con la maglia del City del portoghese Bernardo Silva. Non si ferma più la squadra di Guardiola. We play in Champions League against the best. One of, for me, this 10 days I was the opportunity to see Napoli many games, and I'm really impressed. So for me, it's the team who make the build up and the construction and the how they play the better team in Europe, in the process to keep the ball from Pepe Reina to the strikers better than Napoli. So I'm so fascinating to have this test. Dobbiamo continuare a lavorare e ora abbiamo una partita martedì che sarà difficilissima. Affrontiamo una grande squadra e cercheremo di interpretarla nel miglior modo possibile. Avete sentito, Guardiola incantato dal gioco del Napoli di Sarri, per come viene costruito da Pepe Reina fino agli attaccanti. 800-24-00-24, Federico Zancan, ciao. Non è un inedito comunque che sia incantato dal gioco di Sarri, l'ha già ripetuto almeno una mezza dozzina di volte. Una mezza dozzina di volte, ma sai, è come ripetere per 6 volte l'esame di maturità e passarlo sempre con 100 centesimi. Federico, ciao. Ciao, un saluto a tutti. Oh, però posso darvi 2 numeri del Manchester City di questo inizio di stagione. Ha vinto 2 volte 5-0 contro il Liverpool e vabbè, il Crystal Palace in questo avvio vale quello che vale. Ha vinto 6-0 contro il Watford. Ieri ha vinto 7-2 contro lo Stoke City. In 8 giornate ha fatto 22 punti, segnato 31 gol, ne ha presi 4. Io ieri ho sintetizzato tutto dicendo che Guardiola sta spagnolizzando la Premier. Federico? Ma sì, anche se c'è... Diciamo che l'anno scorso di rodaggio servito sicuramente a Guardiola a capire meglio il campionato in cui è arrivato, il calcio in cui è arrivato. È un Manchester City, quello che vediamo adesso dominare, stravincere le partite, che gioca un po' come il Barcellona e il Bayern Monaco, alcune di quegli aspetti lì. È una squadra che per esempio recupera il pallone molto alto e molto velocemente, ha ovviamente il controllo totale del pallone, però è una squadra che mi sembra giocare a un ritmo più alto, dunque al ritmo della Premier League. Chiaramente il passo in avanti rispetto all'anno scorso è stato fatto anche a livello difensivo, una squadra che concede meno, anche perché gli avversari non hanno quasi mai il pallone, e poi una squadra che l'anno scorso sbagliava tanti gol, quest'anno anche grazie alla crescita spaventosa di un giocatore davvero speciale che è Gabriel Jesus, praticamente quando arriva dentro l'area poi fa gol, e quindi visto che le occasioni ne segna tantissime, poi parliamo di questi risultati, 5, 6, 7 gol a partita, di gol ne fa tantissimi. In questo momento è probabilmente la squadra più forte d'Europa, il Manchester City. Io continuo ad avere qualche dubbio sul rendimento europeo, ma sono fisime mie, non c'è nessun numero che lo giustifichi, però mi sembra una squadra che potrà vincere la Premier in maniera, non ti dico facile, però è la grande favorita per la Premier. In Europa non lo so. In Europa ci darà qualcosa in più la partita con il Napoli, certamente. Le prime due partite fanno testo fino a un certo punto, ha stravinto con il Feyenoord, ha vinto ma non giocando bene la seconda con lo Shakhtar Donetsk. È una squadra che sta giocando a un livello pazzesco, anche perché ha un giocatore che in questo momento credo non abbia uguali nel suo ruolo centrocampo, che è Kevin De Bruyne, che sta facendo qualcosa di incredibile. La crescita di questo ragazzo è stata costante negli anni, adesso davvero, come ha detto lo stesso Guardiola, è arrivato a un livello di maturazione incredibile. Guardiola dice: io uno dei giocatori più forti che ho allenato, uno dei più forti che ho visto giocare, perché è davvero un giocatore di centrocampista tutto campo, box to box come chiamano in Inghilterra, difende, corre e poi davanti continua a sfornare assist e anche ci aggiunge qualche gol come quello molto bello che ha risolto la sfida. Sì, certo. E qualcuno non scarso l'ha visto, Guardiola, nella sua carriera di allenatore come giocatore. No, però mi interessa, visto che ci proiettiamo sulla sfida di Champions con il Napoli, allora, le parole di Guardiola su Sarri le abbiamo sentite, però la domanda al di là dei complimenti è se il Napoli ha le armi per mettere qualche granello in questo ingranaggio. Penso di sì. È chiaro, come la deve giocare? Il gioco, il sistema di gioco è simile, no? Il modo di giocare è abbastanza simile, perché la filosofia di gioco è quella. Poi se prendiamo individualmente i giocatori, devo dire che quasi tutti i duelli individuali li vince il City. Se prendiamo, non so, il giocatore davanti alla difesa, Fernandinho, Jorginho, Fernandinho è un po' più forte. Anche De Bruyne, in difesa? Perché secondo me Koulibaly in questo momento è uno dei primi tre d'Europa. Lì volevo arrivare. Secondo me la coppia Albiol Koulibaly è meglio della coppia Stones Otamendi, che peraltro sta facendo bene in questa stagione. Dove Guardiola ha un problema e dove Napoli potrebbe provare a vincere la partita evidenziando questo problema è sulla fascia sinistra, perché lì Guardiola, sappiamo, ha speso più di 50 milioni per comprare Mendy dal Monaco, il difensore più pagato di sempre. Mendy parte benissimo, gioca 2-3 partite ad alto livello, poi si rompe il crociato, e nell'unico ruolo in cui Guardiola non ha un vero sostituto, perché di fatto in rosa non c'è un vero terzino sinistro alternativo a Mendy, l'alternativa poteva essere Danilo, ma Guardiola non lo sta vedendo più di tanto, poi comunque Danilo dovrebbe cambiare fascia. Sta giocando Delph, che è un centrocampista adattato, che ha fatto benino in un paio di partite, però per esempio la partita di ieri stravinta contro lo Stoke, i due gol dello Stoke arrivano da quel lato, perché Delph non ha grande abitudine a difendere. Da quella parte il Napoli ha Caglion, e credo che possa essere una chiave del match se Napoli riesce a sfruttare questo problema difensivo che può avere Guardiola. Insomma, questo è portandoci verso la sfida di Champions. In un minuto voglio chiedere a Federico Zancan se aveva ragione Conte a dire che questo Chelsea non era all'altezza di ripetere l'esploit dell'anno scorso. Sì, ci aveva visto aveva giusto. Ragione lui. E credo che i problemi attuali derivino un po' dalle incomprensioni e dalle difficoltà dell'estate. Poi sai come funziona il calcio: un'annata ti dice tutto bene, quella dopo tutto è andato storto. In questo momento c'è il condizionato agli infortuni, ha perso Kanté, che però mezzo squadra, ha fatto male Morata. L'anno scorso Conte ha avuto praticamente una stagione perfetta anche dal punto di vista della salute dei suoi, non ha mai avuto un grosso problema, hanno giocato sempre gli stessi, hanno trovato ritmo partita dopo partita. Quest'anno però sapeva di avere un compito più complicato, con la Champions, più partite, una rosa anche dal punto di vista numerico non troppo all'altezza, e questi limiti, questi dubbi che Conte aveva stanno un po' venendo a galla. Sì, l'anno scorso non aveva le coppe di mezzo, Se la tira un po' c'ha questo vizio. Insomma, c'aveva ragione, l'aveva detto. Ma lo dice sempre, si è scelto legittimamente di non investire forte sul mercato. Oggi qualcosa si vede. Grazie Federico. Ciao Federico. Grazie a voi. Grazie a Federico Zancan, che ieri ha raccontato al Manchester City, oggi ce l'ha raccontato in attesa della sfida di Champions contro il Napoli. Allora, abbiamo poco più di un minuto e mezzo. Io vi invito da adesso, 800 24 00 24, dopo il GR delle 18 arriva anche Pierluigi Pardo, apriamo la pagina dedicata al derby di stasera. Dovete dirci chi riderà oggi a mezzanotte, se Spalletti o Mirabelli. Avete sentito meraviglioso quel duello, poi ve lo facciamo sentire. Gianni da Pordenone, vai Gianni. Buonasera, allora, appurato che Allegri non è un problema della Juve ma un valore aggiunto, volevo sapere se secondo voi il destinatario della frase bisogna correre durante e sudare durante la settimana possa essere Higuain. Non credo. Boh, non lo so, ma alla fine chi se ne importa? Vale, no, invece lì vale secondo me c'è la chiave, c'è la chiave. Non, vale, però vale, non credo sia Higuain. Non credo neanche io sia Higuain, sarà un compagno di reparto, poi va a sapere chi è. Però non enfatizzerei questo fatto. Allegri è uno che sa gestire quel gruppo, ha una società fortissima alle spalle, dunque io il problema sinceramente faccio fatica a vederlo. Poi... No, però è anomalo che in un momento di difficoltà, oggi quando la squadra di fatto è cambiata, quindi non dovrebbe essere appagata, dovrebbe avere dentro di sé la forza, la gioventù anche per voler inseguire, sì, i traguardi, lui richiami non una problematica, un errore, lui richiami la necessità di lavorare duro in settimana. Gio, io ho la sensazione, se vogliamo parlare di discorsi, adesso dobbiamo fermarci per il GR, però se vogliamo parlare di discorsi di sistema, ho la sensazione che Allegri e alcuni giocatori stiano ballando una stagione di troppo, quello forse sì. Allora ci aggiorniamo, ci portiamo dietro questo tema anche dopo le 18, arriva Pierluigi Pardo, 800 24 00 24, aspettiamo i vostri pronostici sul derby, vi aspettiamo. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Mi manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Ma noi siamo alla vigilia di un derby importante, un tempo importante di rinascita per entrambe le società, perché sono alcuni anni che al di là delle aspettative i risultati sono un po' deludenti. Per me sarà un grande privilegio vivere anche questo derby qui. Milano la trovo una città intelligente e mi sembra che voglia proteggere le proprie tradizioni in maniera importante. E fra queste c'è anche questo derby. Io contemplo solo la vittoria prima delle partite. No, non ci sarà nessun verdetto, secondo me, dopo questa partita. L'Inter è una buona squadra, ma il Milan è altrettanto una squadra forte, una buona squadra. Non vado a vedere oggi, prima di incontrarli, la classifica, se hanno giocato meglio, se hanno giocato peggio. Non me ne ricordo e non me ne frega niente. Conta quella di domani. Vigilia frizzante ieri di questo Inter Milan, ore 20:45, San Siro, 4,8 milioni di euro di incasso, record assoluto per il calcio italiano, non solo per la Serie A. Pierluigi Pardo, ciao. Eccoci, ciao ragazzi. Sei a San Siro, sì. Sto andando in giusto anticipo, perché a parte i collegamenti, cioè il piacere di arrivare un po' prima, perché... com'è che diceva Spalletti, protegge le tradizioni, il derby, sì, è tradizione, è bellezza, è tradizione. Cancelli aperti da 24 minuti, insomma, anche i telecronisti si emozionano, certo. Quindi, ci sono delle tradizioni che sono belle da mantenere. Assolutamente. Tipo che io vinco la schedina e tu perdi 4-1, ma passiamo alle 4-1 il conto complessivo. E vabbè, sì, allora, ha detto Montella, non ci sarà un verdetto definitivo questa sera dopo il derby. Io sinceramente la penso diversamente, lancio il tema anche agli amici da casa, 800 24 00 24. Abbiamo un'ora per parlare di quello, parliamo anche delle moto, ovviamente alla fine, però io sto guardando la classifica, il Milan in questo momento, una partita in meno, è nono con il Chievo, a quota 12. E se questa sera perde, scivola a 7 punti dalla zona Champions, a 10 dall'Inter, e io credo si infila dentro una crisi difficile da risolvere. Al di là dell'arte dialettica di Montella, che ieri ha allontanato la sensazione di un'ultima spiaggia, siamo qui. Sì, sì, assolutamente no. Di definitivo c'è solo una cosa e non è particolarmente piacevole, quindi è proprio della vita. E in generale, insomma, è chiaro che il Milan arriva malissimo a questo derby. Se non fa risultato stasera, comincia a essere veramente lontana da tante posizioni e da tante situazioni che in qualche modo sono e che sono ancora più importanti, perché insomma Fassone non si è nascosto da questo punto di vista. Lui certamente ha fatto all-in, come abbiamo detto mille volte, vuole un Milan da Champions League, ha bisogno di un Milan da Champions League l'anno prossimo, per motivi anche strettamente formali, come direbbe lui, per motivi sostanziali, perché bisogna recuperare i soldi, perché sono stati spesi tanti. Quindi io penso che il Milan ovviamente ha tanto in palio stasera. Per quanto riguarda l'Inter, insomma, bisogna intendersi su quelli che sono gli obiettivi della stagione dell'Inter. Se l'obiettivo della stagione è vincere il campionato, allora è chiaro che già c'è il fiatone, perché ce l'hanno tutti il fiatone con un Napoli così. Se l'obiettivo della stagione è quello di accomodarsi tra le prime quattro posizioni per cominciare a costruire un futuro di vertice, allora potrebbe esserci anche un po' meno pressione nella partita di oggi. Sì, sì. Però la pressione del derby c'è sempre, a prescindere, anche se hai vinto matematicamente lo scudetto, però, avrai sempre pressione. Per carità, però, insomma, se oggi misuriamo il pressionometro tra Spalletti e Montella, credo che non ci sia partita. Certo. Aspetta che coinvolgo Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio. Buonasera a voi. Non c'è partita se misuriamo la pressione fra Spalletti e Montella. Sicuramente Montella ha molto di più da perdere. Milan è staccato, è partito con pompa magna e si trova adesso quasi a, non dico l'ultima chance, ma vicinissima a una situazione molto, molto difficile per i primi, per lottare per la Champions League. Quindi insomma, sicuramente Milan ha più da perdere. Ma ci sono i 7 punti fra Inter e Milan o no, Pier? Perché ieri c'è stato questo duello intorno alla classifica. Montella ha detto non ci sono 7 punti fra noi e loro, noi giochiamo meglio e loro, insomma, ha lasciato intendere, sono anche fortunati. E Spalletti gli ha risposto, no, Montella ha ragione, ma deve sapere che hanno fatto tutto da soli. Ma Spalletti è stato abbastanza scaltro, secondo me, ieri in conferenza stampa, perché da un lato ha difeso formalmente Montella e poi comunque hanno, credo, anche un buon rapporto. Hanno anche avuto a che fare, no? Nel senso che Montella ha anche giocato con Spalletti allenatore, da quello che ci risulta il rapporto umano è buono, però insomma ha anche fatto notare che la differenza tra le due squadre potenzialmente non c'è, dal punto di vista tecnico non c'è, c'è la differenza di punti in classifica. E allora quando tecnicamente due squadre si equivalgono, anzi addirittura il Milan sembrava potesse avere qualcosa in più, e c'è questa distanza, vuol dire che la distanza l'hanno fatta gli allenatori. E quindi è stato un modo indiretto per farsi un complimento e per mettere ancora un po' più di pressione, come se ce ne fosse bisogno, su Montella. Sì. Non c'è dubbio però, cioè non c'è dubbio, ha ragione Spalletti in questo. Spalletti ha portato un ordine, magari un ordine non bellissimo, magari un ordine esteticamente così migliorabile, però ha portato l'Inter a fare poche cose, ma fatte bene. Montella è in una situazione invece molto diversa, ha cambiato moduli, non ha ancora trovato una strada, non ha ancora trovato gerarchie, non ha ancora un'identità. Si arriva al paradosso, come dicevi tu l'altro giorno, quasi che l'infortunio di Kalinic gli possa quasi essere utile, no? È un paradosso, almeno questa sera gli chiarisce le idee. Ciccio, ci sono 7 punti, sono la fotografia oggi della distanza tra Inter e Milan, o ha ragione Montella? Secondo me ci sono, è inutile dire sempre trovare scuse. Il campionato è lo specchio della la classifica, il campionato è lo specchio della verità. Insomma, l'Inter è stata fortunata, ma il Milan non è che gioca a calcio, fa un calcio champagne, il calcio del Napoli, il calcio del Barcellona. Il Milan ha tantissimi problemi. Quindi insomma, io penserei più a guardare a casa mia che a cercare di sminuire sempre gli altri. Ha fatto un errore in questa vigilia il Milan, e poi vi faremo sentire dopo il traffico anche Spalletti che risponde a Mirabelli e lo fa in maniera ironica, però è vero che questa vigilia del Milan è stata molto caricata sul fatto di dover incutere paura all'Inter, di guardare molto in casa dell'Inter. C'è molto nervosismo, si trapela molto nervosismo. Chi ha visto l'inizio del campionato del Milan, dal ritiro in poi ci sono stati soltanto articoli di giornale dicendo il Milan quest'anno va adesso, fino ad oggi il Milan è fuori. Quindi la realtà dice che il Milan è in grande confusione, Montella è sotto tiro Questa è la verità, il resto sono solo chiacchiere. Abbiamo un minuto di traffico, io chiedo a Ciccio Colonnesi di fermarsi con noi, così completiamo il ragionamento sull'Inter. Traffico, un minuto, torniamo. 800 24 0024. I love this game. Tutti con voi. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Anche mio figlio talvolta, quello grande, mi dà degli ottimi consigli, a volte sono buoni, a volte meno buoni, quindi dipende che consigli sono e se mi piacciono o meno, però li elaboro sempre i consigli, faccio sempre di testa mia, la pelle è la mia. Mirabelli qualche giorno fa, riferendosi all'Inter, ha detto: saranno loro a dover aver paura di noi. Noi dobbiamo aver paura di loro, con il dito alto, mi sembra il... Detto così, il prete di Frittole che dice a Massimo Troisi, dice: ricordati che devi morire, ricordati che devi aver paura. Me lo segno proprio, stia tranquillo. Bella, la vigilia di ieri del derby. Allora, siamo con Pierluigi Pardo, Ciccio Colonnese, Carlo Genta. Prete di Frittole, tanta roba, mo me lo segno. Posso dirvi, chiedo a Ciccio Colonnese, che Spalletti si è calato in maniera istrionica anche in questa sua avventura all'Inter e ricorda da questo punto di vista quell'altro, Mourinho? Ciccio? Io sei Mourinho, sì. È abile, bravo, astuto, furbo. Ha capito che... Quando è un po' capopopolo. Ecco, quando si allena una squadra come l'Inter devi portarti dalla tua i tifosi, e quindi sta facendo bene questo lavoro sia dal punto di vista del campo che anche fuori dal campo. D'altra parte, lasciami essere cattivo, se non hai il leader in campo meglio che tu ce l'abbia in panchina. Questo è vero. Però ha portato forse quello che più di tutti mancava all'Inter, disciplina, perché l'anno scorso l'Inter non aveva disciplina. Insomma, tutti parlavano, tutti andavano fuori dalle righe, insomma, nel calcio ci vogliono delle regole, quello che ha portato, insomma, il rispetto delle regole. Tu ti aspetti che l'Inter questa sera lo attacchi il Milan, al di là delle parole, lo aspetti? No, lo attaccherà. Come te lo aspetti? Lo attaccherà, perché il modulo di Spalletti dimostra che, insomma, questo 4-2-3-1 cerca sempre di non far giocare la squadra avversaria, insomma, cerca di fare un pressing alto con una difesa un po' più alta del solito, e quindi presumo che faccia così. Insomma, la sensazione che almeno fino adesso ha fatto questo, spesso ha sofferto anche in questa maniera, perché, insomma, come abbiamo visto con Crotone in alcune trasferte, ha sofferto molto con questa mentalità, però fino adesso ha giocato in questo modo. Non so se cambierà, però se devo vedere quello che ha fatto fino adesso. Dammi un pronostico secco, come finisce? Pronostico secco finisce 2-1 per l'Inter. 2-1, io e Pier abbiamo detto X. Carlo? 1-1. Poi vediamo, questa sera. Grazie Ciccio. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Grazie Ciccio Colonnese. Adesso andiamo avanti a parlare del derby e lo facciamo con un avvocato. Togli una curiosità, così, work in progress, ma la schedina come siamo messi tra te, Pardo? Siamo già passati alle cose formali. Cioè, carte bollate. Ha vinto. Stravinto. Sei un disastro. Non ti voglio più. Dai, andiamo avanti a parlare del derby. Andiamo avanti. Sinceramente io penso che non ci siano 7-10 punti di differenza con l'Inter come valori ad oggi dimostrati sul campo e come valori in prospettiva. E anch'io sono convinto che questo, che è la classifica attuale, non sia la classifica corretta, però insomma, che non se la prenda anche con noi, perché non c'entriamo niente, hanno fatto tutto da soli. Secondo me noi a tratti giochiamo anche leggermente meglio dell'Inter, anche se abbiamo qualche punto in meno, abbiamo 10 giocatori diversi su 11 in campo. Sì, concordo sul fatto che Spalletti ad oggi sia il valore aggiunto dell'Inter. L'amico Montella si è preso il gioco, Luciano cosa si prende? Il derby è la partita che azzera tutto, mi voglio prendere l'attesa di vedere i miei calciatori, di come lo condurranno, di come ci arriveranno. Allora, ancora parole dalla vigilia, è arrivato Mario Ielpo. Ciao Mario. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao avvocato. Cui affido il compito di difendere Montella e il Milan. Allora, due messaggi che sono arrivati su WhatsApp. Perdere oggi, questo è un tifoso del Milan, vuol dire buttare la stagione a prescindere dall'esonero eventuale di Montella, anche perché non ci sono sostituti. E un altro amico scrive: se il Milan perde, vedo per Montella una parabola alla Pioli. Bravo con le provinciali, in difficoltà con le grandi. Siamo già oltre, Mario. Mi spiegate per favore però che cosa vuol dire giochiamo a tratti, giochiamo meglio del Milan, dell'Inter? Vuol dire quello che può dire un allenatore in difficoltà, credo, in questo momento. Mario? No, purtroppo non so, il mandato di Montella non mi sento di difenderlo, perché, come dire, la mia mentalità di sport, di calcio, non è quella di queste interviste che ho sentito. Non esiste giocare bene. Il concetto di giocare bene è un altro, secondo me. Se noi vediamo ieri sera Lazio-Juventus, o meglio Juventus-Lazio, insomma, a parte chi ha vinto, poi poteva vincere anche la Juve, la Lazio ha avuto qualche episodio fortunato, però l'ardore delle due squadre in campo è un ardore da grandi squadre, a prescindere da chi vinca, no? Quando vedi il Milan ti cascano per terra, sinceramente, i cosiddetti, no? Adesso è sempre... No, per prendere la larga, per andarci piano, bravo Marione. No, cioè, a me che vuol dire che il Milan ha giocato bene? Non è vero che il Milan ha giocato bene. Cioè, e però la linea difensiva scelta da Montella, io magari è un segno di violenza. Il Milan è un disastro, cioè, voglio dire, chi si diverte a vedere giocare il Milan? Nemmeno il più rossonero dei rossoneri, forse neanche Berlusconi si diverte. Badu, allora, fa un possesso sterile, non ha chiaro il modulo che deve mettere in campo. Sì, sinceramente dire che ha giocato bene non è vero. Il calcio è un'altra cosa. Vuol dire far gol, come il Milan pensa di far gol giocando così? Cioè, questa è la domanda a cui dovrebbe rispondere Montella. Ho sentito qualche intervista precedente insomma, alle ultime battute d'arresto, in cui diceva che il Milan è la squadra che in quel momento si segnava di più sul gioco da fermo e su calcio da fermo. Ed è vero, cioè, su azione il Milan fa fatica a tirare in porta. Se togliamo le parentesi di calcio internazionale, cioè quelle di campionato, rimaniamo al campionato, il Milan fa fatica a tirare. Io l'ho visto in casa contro l'Udinese, le ultime della classe, cioè, non è che ha tirato in porta 10 volte a partita, poi ha vinto, no, ha fatto sempre il suo possesso di palla, chiaramente quelle altre squadre producono di meno, quindi la partita non si apre, fa un gol magari su punizione, su calcio d'angolo e vince la partita, però l'ha vinta così, non ha vinta col gioco. Hai capito, Pier, l'avvocato Ielpo? Ma no, ha ragione, qui sì. Non è l'avvocato difensore, ma no, più è l'avvocato dell'accusa, è il pubblico ministero. Il punto però è vero, insomma, cioè il Milan ha giocato bene in campionato a Crotone, che è un po' poco, una partita oltretutto che dopo pochi minuti era già 1-0 e con l'uomo in più. Poi per il resto anche le altre vittorie del Milan non è che siano state brillanti, col Cagliari, con l'Udinese, con lo Spal, non sono state partite dal punto di vista tecnico dello spettacolo clamorose. Ha giocato molto bene a Vienna, però insomma bisogna pure capire che cos'è l'Austria-Vienna, adesso sinceramente. Chiaro, quindi no, sono d'accordo, è difficile ad oggi trovare una linea difensiva per Montella. Sì, ma allora a questo punto faccio io l'avvocato di Montella. L'unica attenuante, che è un'attenuante generica, è che nella campagna acquisti piena di colpi e di facce nuove, sicuramente mettere insieme, assemblare una quantità così nuova e così importante di giocatori sia difficile. Secondo me la linea di Montella potrebbe essere che gli hanno fatto un mercato, in parte condiviso, certamente, che però alla fine gli ha portato qualche problema. C'è Çalhanoğlu, troppe prime punte se deve giocare con soltanto una, il modo di poter usare Suso e Bonaventura, che erano due punti fermi la passata stagione, e questo alla fine ha bisogno del tempo per mettere insieme i pezzi del puzzle, ma forse la campagna non è stata così trionfale come l'abbiamo, è stata raccontata, Mario. Ma io non penso sia un problema di giocatori, cioè adesso io devo sperare che l'intervista di Montella sia un'intervista fatta per uno scopo, cioè che non creda a quello che dice. Cioè, mi preoccupa se crede al fatto che quel tipo di calcio sia, voglio dire, giocare bene. Giocare bene vuol dire fare un gioco che serve per vincere. Non c'è un altro, lo sport vuol dire fare il risultato, quindi giocare bene vuol dire trovare un modo di vincere. Sinceramente il modo di Montella non lo capisco. ho sentito l'altra volta Donadoni fare un'intervista, Donadoni, cioè uno dei giocatori più tecnici della storia del calcio italiano, e dire che gli è piaciuto il suo Bologna in quella partita perché finalmente ha visto un Bologna con grande forza fisica che poteva, anche con la forza fisica, oltre alla tecnica, sicuramente ce l'hanno i giocatori, anche di Termina, insomma, farsi valere sull'avversario. Se non hai Chiellini ieri sera, quello è un giocatore, quello è uno che vuole vincere, poi si perde, farà errori Chiellini, andrà in confusione ogni tanto, però l'ardore per vincere è quello di Chiellini, ragazzi, i campioni sono quelli. Cioè, ma secondo te salta se il Milan perde il derby? Dai, andiamo dritti, salta o no? Non salta, ma non avrebbe senso in questo momento. Io non lo so sinceramente, però secondo me, visto anche insomma lo stato di del Milan, cioè la dirigenza, che è una dirigenza che non è proprietà, che deve rispondere alla proprietà, il rischio secondo me c'è, perché quando poi quelli gli chiedono cosa stiamo facendo, qualcuno deve risponderne, quindi poi dipende sempre anche dal come, avvocato, dipende anche dal come. Certo, chiaro, spiegare 4-0 diventa difficile anche per l'avvocato Ielpo, mettere il fascismo, abbi pazienza. No, per inciso, sarebbe anche ora di finirla con gli allenatori a proposito di mercato, condiviso o non condiviso, sarebbe anche ora di finirla con gli allenatori che dicono io faccio questo gioco, quindi tu mi devi prendere i giocatori per me, per il gioco che faccio. No, l'allenatore bravo è quello che si adatta. Ma li sta provando tutti, però, perché 3-5-2 non è lo stesso se giochi con Canici e André Silva e giochi magari con Suso, un adattato, Çalhanoğlu, no, una punta, trova la con Bonaventura o no. L'allenatore bravo è quello che copre i difetti dei suoi giocatori nel fatto e pregi. Non ci stanno altri, perché tutti i giocatori hanno difetti e pregi. Poi io ho visto De Sciglio, che è un giocatore che non stravedo, ecco, per dirla, giocare contro la Spagna degli europei dal vivo, ero lì a vedere Italia-Spagna dal vivo, fare una partita incredibile. Ragazzi, perché lo metti, no, lo faceva giocare a 5, gli toglieva molta responsabilità. Un'altra vedova di Conte, No, ne parlavamo nella prima ora, parlando degli errori di Allegri. A me piacciono quegli allenatori lì, a me piace Conte, piace anche Mourinho, cioè piace Spalletti. Non stiamo a fare tante Spalletti, sicuramente, già Spalletti è un po' più evoluto dal punto di vista magari rispetto a Mourinho, no? Ma basta Mourinho, tu dici, vedi la squadra, non sai che è la squadra di Mourinho, no? Perché non gli dà una filosofia di gioco identificabile, non è Sarri, tu vedi è Sarri, quella è la squadra perfetta, un orologio svizzero. Quello è il massimo, però se non si ottiene quello, basta la squadra di Mourinho, cioè una squadra tenace, non molla mai. Qualcosina vince ogni tanto. Se c'hai giocatori buoni vince sicuro, non c'è niente da dire. Grazie Mario. Ciao Mario. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie Mario Ielpo, ci fermiamo un minuto, torniamo. 800 24 00 24. Scrive un amico: chi vuol bene al Milan deve sperare nell'esonero di Montella, e la sconfitta del derby è la miglior occasione. Mi sembra ci sia anche un po' troppo pessimismo intorno a questo allenatore. Torniamo e riapriamo anche il ragionamento intorno alla crisi della Juve. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Tiziano da Milano, 800 24 00 24. Tiziano. Ciao ragazzi. Ciao. Tifosi del Milan. E volevo chiedervi una cosa. Cioè, allora, il modulo questa sera sarà 3-5-2 o il 3-4-3? Perché c'è una bella differenza con Bonaventura e Suso a seconda di come bella li mettiamo domanda. Giù. Bella perché domanda. 3-4-3 ci sta con Bonaventura e Suso in supporto a Silva. Mentre invece se fai il 3-5-2 con Suso dietro Silva, ripeti lo stesso identico modulo che è schierato a Genova, e che comunque ci ha fatto tirar su quel poco che abbiamo tirato su. Io credo il 3-5-2, però non lo so, Pier, che sensazione hai tu? Io credo il 3-5-1-1. Sì, 3-5-2 è anomalo. 3-5-2 con Suso alle spalle di André Silva. Questa è la sensazione, quello che ci risulta sia stato provato con più regolarità durante la settimana. Poi ovviamente le caratteristiche dei giocatori possono fare la differenza. È chiaro che Bonaventura è una delle non molte chiavi che possono dare qualcosa in mezzo al campo, ma insomma io credo che al di là dei moduli oggi il Milan deve dare un segnale. Oggi è la classica partita che può sparigliare in un senso o nell'altro, che può aggravare la crisi oppure può invece ridare un respiro completamente diverso, quindi sì, è sono situazioni diverse. È chiaro che la razionalità, il motivo per il quale tutti pensiamo al pareggio, è perché se facciamo un ragionamento razionale, il pareggio è un risultato che potrebbe quello che tiene in piedi il Milan, quello che tiene in piedi il Milan, quello che tiene in piedi il Milan e quello che tutto sommato potrebbe non andare male all'Inter, esatto, è questo il discorso. Tra le due certamente è il Milan che ha messo peggio, non c'è discussione, è il Milan che ha più pressione addosso. Ah, non c'è dubbio. C'è chi ci dice chi prendereste esonerando Montella, Di Matteo, Tuchel, non lo so. Di Matteo non so da quanto ormai non si sieda più in panchina. Allora, ci sta ascoltando anche Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Riapriamo la pagina su quella che io chiamo crisetta della Juventus, al di là dei pali, delle traverse, dei rigori sbagliati. Direttore, buonasera. Buonasera. Ciao. Posso farti sentire Diego da Pisa, che ci aspetta da un po'. Diego. Sì, buonasera. Vai. Io sono un vecchio tifoso della Juventus, dai tempi di Sivo, Richards, Boniperti. Io volevo dire questo, che secondo me la crisi della Juventus ha alcuni connotati. Da un punto di vista manageriale, voglio subito accusare Marotta per un fatto, per fare quei contratti di prestito biennale senza una clausola di rientro dopo un anno. E questo l'ha fatto cozzare sulla vicenda Spinazzola, l'ha fatto cozzare sulla vicenda Lirola che voleva far rientrare, lo farà cozzare su Orsolini, non abbiamo avuto Caldara. Cioè, secondo me questi sono una gestione. Sono degli errori. Poi l'altra, Diego... l'altra è Allegri. Allegri sarà anche un grande maestro, frate livornese, l'ho visto giocare nel Pisa, però ha commesso errori nella Supercoppa col Milan nella marcatura di Suso, infatti venne il gol di Locatelli. Dai. A Cardiff ha perso la Coppa dei Campioni, secondo me, da giocare, non da perdere 4-1. Con la Lazio in casa facendo giocare Balzani. Tu metti Allegri lì. È un dato inconfutabile. Sì, Balzani ha 36 anni, quindi c'è ormai un'età oggettiva. Balzani non ha più la corsa che aveva una volta, si è vista di sera nelle due reti. Sì, però io non credo che si possa girare poi tutto intorno a Barzagli. Se gli errori ci sono di Allegri, e ce ne sono stati ieri, magari sono anche più ampi. Allora, ricoinvolgo Paolo De Paolo, a cui faccio rispondere a Diego, aggiungendo che mi ha molto colpito il suo editoriale questa mattina sulla prima di Tutto Sport. Sostanzialmente la sintesi era: Juve presuntuosa e impreparata, si è presa una lezione da Inzaghi e dalla Lazio, ma Juve presuntuosa e impreparata, cioè sono due aggettivi che è difficile associare alla Juve in questi anni. Sì. Direttore. No, infatti non in questi anni, in questa partita. Cioè io vorrei che si abituasse anche un po' tutto l'ambiente juventino, perché io mi sono preso anche una risposta un pochettino piccata da parte di Higuain nel dopo partita, facendo una similitudine tra due titoli di Tutto Sport, uno che lo criticava e uno che lo esaltava. Higuain è costato 90 milioni e prende 8 milioni all'anno. Noi giornalisti abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di criticare senza avere la sfera magica per prevedere le cose come andranno tra qualche mese oppure tra qualche settimana. In questo momento la Juventus la vediamo sotto gli occhi di tutti. Probabilmente possiamo presentare uno storico, cioè che la Juventus e Allegri ha sempre un inizio difficoltoso, ma fino a quando non si trova il bandolo della matassa bisogna in qualche modo essere corretti, onesti anche nei confronti dei tifosi e dei lettori e raccontare le cose come stanno, non come potranno essere fra qualche mese. Detto questo, è ovvio, io non critico o non metto sulla gratica un allenatore come Allegri, che ha vinto comunque 4 scudetti, è nella classifica dei migliori tecnici italiani per aver vinto più scudetti, al quarto posto, è uno che comunque la squadra riesce alla fine a farla funzionare. La Juventus sta vivendo un pochettino l'incertezza dello stesso allenatore, che come l'anno scorso riuscì a trovare il bandolo della matassa con i due centrocampisti e i tre giocatori dietro la punta e Higuain, adesso con il 4-3-3 è in una fase di difficoltà, giocando in quella maniera contro la Lazio purtroppo ha messo il centrocampo della Juventus in balia di quello fortissimo, fresco, giovane e anche bello solido fisicamente della Lazio. E il risultato si è visto, come si era visto del resto ad agosto in Supercoppa. Però la domanda, io credo, la giro anche per Luigi Pardo, è questa. Oggi Tutto Sport dà una risposta. E cioè, ci sono dei limiti strutturali al di là degli errori di Allegri in questa Juve in questo momento? Si intravedono, Pier? Ma c'è una campagna acquisti che qualche dubbio l'aveva suscitato, nel senso che siamo andati a prendere, si era perso qualcosa in difesa, essendo a prendere qualcosa invece di positivo lì davanti, dove le soluzioni adesso sono tante, e questo probabilmente risponde a un'idea che Allegri da qualche parte deve avere in testa. A me sembra che il problema della Juve sia dietro, scusate, sarebbe utile avere anche della voce, però ovviamente ci stiamo attrezzando. Il problema mi sembra dietro, mi sembra evidentemente quello di una fase difensiva che non è più all'altezza. Però insomma, a me la vera notizia di questo primo 8 giorni di campionato mi sembra il Napoli. Nel senso che il Napoli è cresciuto tantissimo, vi ascoltavo prima di collegarmi, il dato dei 72 punti a 62 nelle ultime 27 partite è un dato incredibile, e soprattutto il Napoli ha trasformato la sua debolezza di qualche tempo fa, cioè il fatto di essere una bellissima squadra che però concedeva sempre qualcosa, nella sua principale qualità. Certo. La partita di ieri, a parte i 20 minuti finali, insomma, arrivare al 70esimo senza aver concesso una palla gol alla Roma, in casa della Roma, è un risultato incredibile. Quindi è più che altro questo. Poi cioè, ieri c'è più che altro una crescita del Napoli piuttosto che qualche limite della Juve, direttore? No, il limite della Juve c'è rispetto a prima. Insomma, ci sono, ci sono. Quando la Juve perde in casa è una notizia, no? Non succede mai, erano due anni che non perdeva. Però non è... insomma, non sono numeri quelli della Juve tali da giustificare chissà quale crollo, è che c'è un antagonista veramente credibile. Direttore De Paola. Sì, sono d'accordo, cioè, per carità, è giusto avere un quadro complessivo e fotografare la situazione per come la si vede, quindi è innegabile che si debba passare da un elogio non solo della qualità del Napoli, ma anche della concretezza a questo punto, che era quella un po' messa in discussione. Appunto attorno, sarà in grado di vincere? Beh, insomma, in queste prime 8 partite lo ha dimostrato partita dopo partita, quindi è chiaro che la Juventus adesso ha un avversario diverso con cui confrontarsi. Però ribadisco, le incertezze, ieri insomma un Lucas Leiva che entra tra due centrocampisti come Bentancur e Khedira che lo guardano arretrando, beh, insomma quella è un'incertezza che non si vedeva da tempo, un'ingenuità che non si vedeva da tempo. Non voglio dare la croce su Barzagli, però Barzagli stesso ha ammesso di essere un po' colpevole su entrambi i gol, soprattutto fra lui e Chiellini, nell'essersi lasciati sfuggire in maniera abbastanza anomala un giocatore rapido come Immobile. Ecco, insomma, queste insicurezze. Poi è il punto di domanda forte Dybala, che è rientrato in una maniera pazzesca dall'Ecuador, per carità, fuso orario, altitudine, tutto quello che si vuole, ma insomma non stava in piedi Dybala. E poi, sì, anche se non ha fatto brutti 20 minuti, no, al di là del rigore tirato davvero male. Sì, però ecco, quella leziosità, io dico una cosa, è un giocatore incredibile, io ho probabilmente una piccola passione personale per la sua qualità, però dico, eccede a volte in leziosità, non si calcia un rigore in quella maniera debole. Anche basta se farlo calciare un altro, cioè, io lo faccio tirare a Higuain che spacca la porta, va E seconda cosa, fai un colpo di tacco sotto la gamba a centrocampo, se perdevi quel pallone era sicuramente una ripartenza da parte della Lazio. Andava in porta, allora, la Lazio, sì. Andava in porta in quel punto, e invece gli è rimasta fortunatamente incollata ai piedi. Ecco, io dico, a volte eccedere troppo in questo fa perdere un pochettino quella visione che si deve avere di Dybala, che deve essere il leader trascinatore anche concreto della squadra. Ecco, questa è la piccolissima critica che mi permetto di fare a Dybala, perché non discuto il campione. Per il resto, insomma, ha un inizio di stagione che anche per i numeri è difficile da discutere. Il punto di domanda è Higuain. Ecco, ma difatti io mi prendo l'ultimo minuto prima del traffico, prima di salutare Pierluigi Pardo, che lasciamo alla sua telecronaca di Inter Milan, e il direttore De Paola, che lasciamo a Tutto Sport. Però voglio una risposta un po' rapida da tutti. Allegri deve insistere o no su Higuain, direttore? Sì, per me sì, assolutamente. È Higuain che deve uscire da questa cappa di inquietudine, perché è nervoso. Ha un nervosismo che probabilmente è accompagnato a una condizione fisica non ancora ottimale. E quando Allegri gli aveva detto, nella partita precedente in cui aveva segnato, che lo aveva rivisto con la gamba che funzionava, quindi con una velocità di gamba, ecco, lui deve riacquistare quella velocità di gamba, altrimenti viene sempre risucchiato dai due centrali difensivi. Pier? Guarda, deve assolutamente insistere su Higuain, nella stessa misura in cui Sarri, nel momento in cui Hamsik sembrava un po' giù, doveva insistere su Hamsik, nella stessa misura nella quale Montella, sì, non si abbandonano i giocatori che possono fare la differenza. Certo, non puoi, non hai alternativa. Poi conto è farlo rifiatare, fargli fare una panchina, gliene ha fatte fare due consecutivamente, per carità, quello fa parte della gestione delle energie ed anche se vuoi della gestione psicologica, in certi momenti magari hai bisogno di una scossa, però non c'è dubbio che uno come Higuain debba essere recuperato al 100%, in parte è già stato recuperato. Poi ieri calcio è anche, sì, è anche c'è la traversa di Higuaín, però ragazzi, no? Si è, ma, si è, ma, no, si è certo. Mangiato un gol Higuaín che grida vi devo fermare, c'è il traffico, allora grazie. Ciao. Pier, a domani. A domani Pierino. Tanto ci vediamo domani, c'è Forum e Business, seconda edizione del Sole 24 Ore, ci siamo anche noi, c'è una mattinata di incontri, di tavole rotonde. Grazie a Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Domani vi leggiamo, perché sicuramente la situazione della Juve andrà analizzata e approfondita. Traffico, poi parliamo della straordinaria Alba che ci ha regalato Dovizioso con la sua Ducati. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è ancora un'opportunità qua in fondo. Però non qua è facile, fondo, perché qui esce molto bene Mark. Adesso potrebbe cambiare traiettoria Dovizioso, non andare non più male, al centro della male, pista. È vicino. Potrebbe non andare non più al centro della pista. Rischia qualcosa in più. Lo attacca. Ci stiamo. È entrato, ci stiamo. No. Piede botta, entra no. Marquez, un pazzo. Non può girare. Va largo, volata, volata. Bravo. Eccitante, più del solito. Col suo errore a metà giro mi sono preparato alla 11, la 11 la mia moto andava davvero forte, potevo frenare molto più forte, però l'ultima curva ho detto adesso la faccio piano, è andata come me l'ero immaginata e quindi chiudendogli la porta dopo non poteva più uscire forte. Bello, belle sensazioni. Noi giocheremo le nostre carte fino alla fine, non so se sarà sufficiente, ma l'abbiamo dimostrato più di una volta quest'anno, ancora di più oggi, ci proviamo, perché no? Oggi ci credi più che mai? Ci credo sempre di più nel modo di approcciare il weekend, poi a volte ce l'abbiamo, a volte no, ma ci dobbiamo provare, ci stiamo provando, poi vedremo. C'è da dire che quando Dovizioso vince non lo fa in maniera banale. Saluto Roberto Ungaro, ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao, ciao Giovanni, ciao Carlo. Allora, io mi limito a fare il notaio. Dovizioso primo, quarto successo stagionale, secondo Marquez, avete sentito il finale, terzo Danilo Petrucci, quarto Iannone, quinto Rins, sesto Lorenzo, nono Vignales, caduti e ritirati Valentino Rossi e Dani Pedrosa, che abbandonano definitivamente la corsa mondiale per quel poco di speranze che ancora avevano. Corsa mondiale che ha tre gare dalla fine, quindi con 75 punti in palio, recita Marquez 244 punti, Dovizioso 233, Vignales 203. 11 maledetti punti, tre gare. E adesso, esaurita la parte notarile, andiamo sull'emozione, svegliarsi la domenica mattina e fare l'amore disperatamente con la rossa. Sì, il grande banca, libidine, a casa, punto. A casa Honda, questo fa male. I giapponesi. No, è gara incredibile perché è gara bagnata dove vince chi osa, non si sono risparmiati, è davvero una poltrona per due questo campionato, cioè Dovizioso e Marquez. Abbiamo rivisto il Dovizioso che qualche volta abbiamo visto quest'anno e in quelle volte ha fatto la differenza, questa è una gara quasi fotocopia dell'Austria dove alla fine l'ultimo giro se la sono decisa. La mia osservazione è che comunque Marquez, che aveva tutto da perdere, ha corso come solo lui sa fare, cioè rischiando e giocando. È stato davanti praticamente quasi tutta la gara, però Dovizioso è stato bravo, intelligente, accorto come sempre, si è portato vicino e all'ultimo giro, quando ha preso un'imbarcata, Marquez ha aperto la possibilità, Dovi si è infilato dentro e lì abbiamo visto dei sorpassi, dei controsorpassi che secondo me sono il capolavoro, la gara più bella di quest'anno ed è sotto l'acqua, quindi questo vuol dire molto. E l'opera di Ducati finisce col podio, l'ennesimo podio di Petrucci, quindi primo e terzo posto, ripeto, a casa Honda fa male, questo fa davvero male. E gli assenti ingiustificati sono i due blu, la Yamaha, perché al di là di Valentino che è caduto e Vignales nelle retrovie, però non ci sono mai stati tutto il weekend, anche nelle prove erano molto lontani, la gomma si deteriora. Insomma, anche per Vignales, secondo me, tu hai detto bene con i conti alla mano, Giovanni, però direi che anche Vignales ormai deve dire fuori, fuori, dai, sono fuori. Rimasti in due, sono rimasti in due gli Ailer. Allora, tre gare, tutti. Valencia vince Marquez, e Valencia ne mancano due, dico, si può Malesia, fare o no? Malesia vince, può vincere Dovizioso perché è una pista Ducati, I Phillip Island se la giocano, vedo bene Marquez anche lì, ma se la possono giocare. Però deve inserirsi qualcuno. Posso se no... fare prosaico? Robby, o Marquez si sdraia o vince il mondiale. Secondo me sì, cioè il mondiale è suo, può solo perderselo, però... Ragazzi, 11 punti sono... Lo so, ma quello è un sospiro, È un animale, e Dovizioso ha giusto due gare per approfittarne. Ripeto, Malesia, dove potrebbe essere avvantaggiato, e la prossima in Australia, dove può far qualcosa, perché alla fine nel toboga di Valencia Marquez giocherà gatto al topo, sì. Quindi il problema è portarsi là all'ultima gara. Sì, resta il fatto, Robby, scusami, resta il fatto che ogni tanto Dovi si accende e si spegne, perché questo Hai Dovizioso, ragione. Quello di oggi, può vincere davvero il mondiale, però sì. Ogni tanto torna al Dovizioso di prima, e dov'è l'interruttore, perché si spegne la luce? Col braccino, perché lui è uno che ragiona, non mette il cuore oltre l'ostacolo, e invece questa cosa Marquez la fa sempre. 23 cadute quest'anno, gli va sempre bene. Lui rischia, osa il suo modo di correre, invece è un ragioniere Dovizioso, molto lucido, intelligente, ha fatto delle bellissime corse. Quella di oggi è un capolavoro, ragazzi. Solo che per vincere un mondiale bisogna anche un po' rischiare e osare un po' di più. Ecco, gli manca quella ciliegina su una torta che è meravigliosa. Due paroline, due su Iannone, che ha riportato la Suzuki ai piedi del podio. Allora, è risorto, ma è una risurrezione parziale, secondo me, perché sotto l'acqua, sai, tutto cambia faccia. Anche Rins si è fatto vedere, hanno battagliato per due, quindi vuol dire che la Suzuki qualcosa ha fatto e sta riprendendo. È una gara troppo particolare per dire che è una risoluzione completa, non è risorto del tutto, però è un passo in vista del 2018, che non può essere come quest'anno, perché un'altra stagione così, ragazzi, in Giappone stracciano non la licenza, ma il moto mondiale, perché i giapponesi per correre così non si presentano. No, insomma, peggio di come è andata quest'anno è difficile. Registriamo oggi però il quarto posto di Iannone, alle spalle di Dovizioso, Marquez e Petrucci, meglio di Lorenzo sesto, Rins l'hai citato, è arrivato quinto, Vignales, ma insomma la Yamaha tutto il weekend non ci ha preso nel Gran Premio del Giappone. No. Grazie Roberto. Ciao Robby. A voi, ciao. Grazie Roberto Ungaro, noi ci fermiamo qui in attesa del Super Derby che verrà raccontato negli appuntamenti informativi di Radio 24 da Dario Ricci. Io saluto Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggio e Valeria Bernardi, che si sono alternati in regia. Con tutti i convocati weekend ci sentiamo domenica a partire dalle 17 come tradizione, mentre tutti i convocati torna domani dopo il GR delle 14. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.